l'Associazione Culturale Connettive presenta Controessenze, la rubrica letteraria delle donne, mujeres, femme, women, mulieres, poem, uniques, mujeres. The cauldron was a bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like piranhas in a stream. And they spread themselves before me, an offering so sweet. Allora, stasera parleremo di Librati, la libreria delle donne di Padova. Questa libreria che attraverso eventi, incontri, dibattiti e vendita di libri di letteratura femminile e femminista racconta e trasmette la cultura delle donne. È nata nel 2014 ed è partita inizialmente dalla fondazione di un blog, il blog di Femminile Plurale, che potete trovare al sito www.femminileplurale.wordpress.com, che è stato un punto di partenza e un primo luogo di scambio e di riflessione sulla teoria e la pratica degli studi delle donne. In seguito le sue fondatrici hanno poi aperto la libreria delle donne, prima libreria in assoluto a essere aperta, prima libreria delle donne ad essere aperta a Padova e nella zona di Triveneto, e che si presenta come luogo di cultura, di incontro e di confronto e di condivisione, un ruolo che in effetti tutte le librerie dovrebbero avere nonostante i problemi economici che oggi devono affrontare, soprattutto che oggi deve affrontare la piccola e media editoria e dunque anche le librerie. In questa bella libreria, che si trova esattamente a via San Gregorio Barbarigo 91, si vendono solamente libri di scrittrici sconosciute o meno, che sono essenzialmente autrici di romanzi, di saggi, di graphic novel, di narrativa per l'infanzia e libri per ragazzi e anche di libri di cucina. Ora ci metteremo in contatto telefonico con una delle fondatrici di Librati, si chiama Ilaria Duringon, che ci parlerà di questo magnifico progetto e con la quale parleremo anche di un evento che in libreria verrà organizzato domani il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza alle donne, e che vedrà la partecipazione dei centri antiviolenza di Padova e dell'associazione Padova Donne. L'incontro prevede inoltre la lettura di alcuni brani di un libro di poesia di Annalisa Bruni intitolato Andando a capo prima di finire la riga e del libro di Laura Walter Chiamarlo amore non si può, che ovviamente potete trovare in libreria. Queerest of the queer. Pronto? Ilaria? Pronto, sì. Ci sì, senti? Pronto. Ilaria? Sì, sì. Ciao, sì, scusami, sì. Non ti sentivo Ciao. Prima. Allora, grazie per aver deciso di partecipare stasera, anche se è tardi, quindi ci dispiace per l'ora tarda. Però, insomma, siamo contente di presentare Librati, la libreria delle donne di Padova. Senti, ti volevamo chiedere per prima cosa, noi avendo letto sul sito internet un riassunto che voi avete fatto, no, dei vostri obiettivi, no? E uno degli obiettivi, diciamo, interessanti è questo, no, che vi proponete poi di diffondere la cultura delle donne. E io spesso quando parlo di cultura delle donne e parlando anche con gli editori, spesso se ne escono fuori con la parola letteratura femminile o scrittura al femminile, e questa è una cosa che non riesco mai a capire che cosa intendono loro per scrittura al femminile. E voi come impostate il pensiero delle donne attraverso la libreria, qual è il punto di vista, il vostro punto di vista? È scrittura al femminile oppure una letteratura che comunque è importante a livello mondiale e che dovrebbe essere condivisa, diciamo, da tutti, e quindi non presentarla come letteratura al femminile? Devo dire che anche a noi spesso chiedono perché una libreria delle donne, quindi è una domanda che ci viene spesso fatta da clienti o da persone che passano davanti al negozio, e non conoscendo la tradizione delle librerie delle donne in Italia si domandano perché una libreria delle donne, no? E la risposta che noi diamo è che la nostra intenzione nell'aprire la libreria è stata quella di valorizzare il pensiero delle donne in quanto pensiero differente. Certo. Differente rispetto a quello maschile, differente per ragioni storiche, sociali, culturali e anche esistenziali. Si tratta quindi di un pensiero differente, perché banalmente differente è stata ed è la vita delle donne, e quindi se il pensiero in qualche modo nasce dall'esperienza, a quello delle donne non può che essere diverso rispetto a quello maschile. Ma non è un pensiero, diciamo, chiuso all'esperienza individuale delle donne, quindi prettamente femminile, perché le donne sono state capaci di andare ben al di là del pensare la propria individuale esperienza, ed è un pensiero sul mondo e un pensiero diverso. Quindi riteniamo che è un pensiero diverso, e quindi che arricchisce il panorama culturale, sociale, e che può essere di interesse di tutti e di tutte. E devo dire, per quanto riguarda la nostra esperienza in libreria, che ci sono molti ragazzi che sono interessati al pensiero delle donne, quindi ci sono degli uomini che entrano in libreria, particolarmente ragazzi giovani, e che il cui senso della libreria è stato pienamente recepito. Quindi ragazzi, uomini in generale, che comprano libri oltre a frequentare la libreria, ragazzi, sì, vi comprano anche libri, non so, romanzi, immagino, perché sono quelli comunque generalmente più letti. Allora, in realtà leggono soprattutto saggistica i ragazzi, uomini che entrano in libreria. Saggistica sì. Femminista. Saggistica femminista, esatto, sì. Bene. Esattamente, ecco, sulla narrativa, diciamo che la narrativa delle donne è ancora molto considerata una cosa da donne. Ok, quindi non comprano romanzi che poi invece le donne comprano tanto, i romanzi, le donne familiari. Sì. E infatti ti volevo chiedere, i libri che proponete, guardando, diciamo, guardando velocemente il vostro sito, ho visto, no, che ci sono i romanzi, chiaramente di narrativa, e poi ci sono i saggi e le graphic novel, e sono di scrittrici sia conosciute che meno conosciute. Io adesso mi piacerebbe leggere, ancora non l'ho letto, La bastarda di Istanbul, che avete, che è di Shafak Kelif, che è piuttosto nota in Turchia, in Italia no. Le donne comprano anche queste scrittrici meno conosciute, oppure? Allora, io devo dire che La bastarda di Istanbul in realtà è un libro, almeno per quella che è la nostra esperienza in libreria, abbastanza conosciuto, nel senso che noi lo abbiamo venduto anche abbastanza, credo che sia dovuto un po' alla parola, e quindi è un libro che sì. È entrato, non dico un classico, però insomma molte lo conoscono, almeno il nome. Penso che quando fosse uscito avesse avuto un discreto successo, quindi è un libro che si conosce abbastanza, ecco. Sì. E devo dire che il lavoro in libreria mi ha fatto accorgere di tante cose che io non credevo, per esempio quanto si vende Virginia Woolf, per dire. Insomma, ci sono alcuni casi che magari uno non si aspetta e che di cui piacevolmente stupito, come il caso della Bastarda di Istanbul, che è un libro bellissimo e che è anche abbastanza conosciuto e letto. Sì. E, hai detto quindi che entrano diversi lettori, ci sono diverse tipologie, entrano le donne, entrano anche gli uomini, sì? E voi che libri proporreste di leggere? Ci sono dei libri che vi sono piaciuti particolarmente o anche importanti da un punto di vista teorico? Abbiamo parlato di romanzi, voi avete anche tanta saggistica. Che sono stati scritti ultimamente o anche di scrittrici, di autrici italiane, solitamente no, si vendono molto libri di autrici e di teoriche americane o anche europee, però poco di scrittrici, di autrici italiane, che poi sono veramente poco conosciute, anche le femministe italiane. C'è allora, qualche diciamo, titolo? Di saggistica vendiamo soprattutto molto i classici del femminismo, quindi Lairi Garai, abbiamo venduto La mistica della femminilità di Betty Friedan, delle raccolte collettane di saggi, Judith Butler si vende tanto. Insomma, diciamo i nomi grossi più che altro, che non dei libri su specifici argomenti di saggistica. Diciamo. Quindi Judith Butler, anche la teoria del gender, cioè chi è interessato vi chiede Judith Butler perché conosce la teoria del gender. Che... Esattamente. Ok. Esattamente. E invece per quanto riguarda la narrativa il discorso è molto più diversificato, sì, perché ognuno entra con i suoi gusti e noi cerchiamo di proporre a seconda di quelli che sono i desideri del certo, singolo cliente, della singola cliente, quindi sia io che Laura cerchiamo di leggere moltissimo per poter proporre a ciascuno anche la cosa più adatta. Chiaramente poi ci sono le nostre preferenze, tipo io consiglio molto Elena Ferrante perché ritengo che oltre ad essere una grande scrittrice sia anche facilmente consigliabile. Poi però leggiamo anche gialli, leggiamo anche romanzi storici, insomma ci siamo un po' lì. Bene, e quindi diciamo che la cosa che cercate di fare, io non so, è una domanda, la cosa che cercate di fare è anche proporre romanzi a uomini che solitamente non comprano romanzi scritti da donne? No, lo so perché il mio compagno ha una piccola casa editrice, anche lui ha una piccola casa editrice, e devo dire che i libri che vengono scritti da donne, che sono in questo caso sconosciute e non sono femministe, perché loro non si occupano di femminismo, si occupano di altri temi, sono difficilmente vendibili, io dico i romanzi. Ed è un peccato, no? Perché leggere anche molto quello. È una cosa che secondo noi rende anche importante il nostro lavoro, è far iniziare a leggere i romanzi delle donne anche agli uomini, perché quello è proprio un segnale, secondo me, di come si ha molto da fare. Gli uomini che entrano in libreria da noi non chiedono romanzi. Chiedono saggi perché magari sono interessati, perché devono fare dei lavori, non so. Mi è capitato di parlare con un ragazzo ultimamente che aveva letto Judith Butler, ma perché lo doveva fare a livello universitario, aveva una tesina da scrivere, quindi sì, ben venga, no? Certo. No, secondo me c'è anche un interesse vero nei confronti del pensiero delle donne per quanto riguarda la saggistica e la riflessione politica, sociale. Però invece sulla narrativa il discorso è completamente diverso. nel senso che i romanzi scritti da donne, gli uomini li percepiscono ancora come storie, appunto, come dicevi tu prima, al femminile, e che quindi non possono dire niente a loro. Esatto. Ma sì, perché vengono anche pubblicizzati così. Vengono pubblicità generalmente come scrittura al femminile, non che voi li pubblicizzate così assolutamente, però gli editori che mettono sul mercato anche romanzi tradotti spesso li pubblicizzano in questo modo, insomma, al femminile. Sì, basta guardare le copertine, insomma, per capire come siano studiati ipoteticamente per essere rivolti ad un pubblico femminile. Quindi avete mai lanciato un romanzo familiare, per esempio questo di Che mi piace molto, La bastarda di Istanbul? Non avete fatto incontri, o se fate incontri lanciando, diciamo, romanzi di questo tipo, non vengono uomini, vi ritrovate solo con donne, o non c'è stata occasione di lanciare romanzi, diciamo, familiari, non so. I romanzi che abbiamo presentato fino adesso avevano un pubblico prevalentemente femminile. Sì. Non so, forse bisognerebbe provare a presentare qualche classico, qualcosa di più conosciuto, forse in quel modo si potrebbe anche cercare di attirare qualche uomo, magari richiamato dal nome. Certo. Beh, comunque, insomma, un bellissimo progetto. Complimenti, perché grazie. Veramente, no? E poi è utile, no? Voi organizzate anche dibattiti, incontri, immagino, no? Su diverse tematiche. E per domani che cosa c'è in programma? Noi in parte l'abbiamo già, diciamo, abbiamo letto dal sito, no? Che ci sarà questo incontro con le organizzazioni, con alcune organizzazioni, con alcuni centri antiviolenza, se non sbaglio, un centro antiviolenza. Allora, ci saranno le creatrici del centro antiviolenza di Padova. Sì. Che saranno le ospiti d'onore, diciamo, nel senso che un po' tutto l'incontro sarà attorno a quello che loro ci racconteranno. Poi c'è un'associazione di donne che si chiama Padova Donne, che ha lavorato anche sulla violenza e sul lavoro, insomma, su tematiche legate appunto alle problematiche delle donne. E poi faremo due reading, un reading di poesie, appunto sempre sul tema della violenza, di una poetessa di Venezia, e poi un reading tratto da un libro di racconti rivolti ai ragazzi e alle ragazze, appunto sul tema della violenza, da una scrittrice padovana. Quindi sarà un incontro molto composito. Sì. Siamo molto contenti, anche perché sul tema della violenza bisogna sempre stare vigili. Sì. Quindi, beh, adesso si parla più che altro di violenza domestica, si parla di violenza contro le donne, almeno diciamo quello che io sento dai giornali, dai telegiornali, c'è un'attenzione maggiore sicuramente rispetto a prima, credo, però sì, si parla fondamentalmente di violenza domestica. E voi parlerete prevalentemente di violenza domestica, o te lo chiedo, non penso che sapete già come andrà a finire, chiaramente, perché uno... Sì, non sappiamo, però le donne del centro di violenza di Padova si occupano di violenza a 160 gradi, anzi sono oberate di lavoro, hanno pochi fondi, insomma credo che abbiano a che fare con le esperienze più diversificate. E quindi sì, sarà un incontro anche in cui parleremo proprio della violenza nei confronti delle donne, poi parleremo anche di quella che è la situazione nel nostro territorio, dei tagli che sono stati fatti ai centri antiviolenza, insomma, sì. Il discorso sarà molto ricco, ecco, poi non so bene quale piega prenderà, dipenderà anche da chi verrà ad ascoltare. Certo, benissimo. E allora niente, ti ringraziamo, noi vi facciamo i nostri auguri, se passeremo a Padova vi verremo sicuramente a trovare, pubblicizzeremo la vostra libreria, i vostri libri, adesso è Natale, magari cercheremo esatto. di facciamo sì. anche spedizioni. Di spedizioni, questo sì, è ovvio. Io comprerò la Bastard di Istanbul sicuramente. E ci sentiamo presto. Speriamo di chiamarvi ancora. Grazie. Grazie. Buonasera. Grazie, ciao. stranger, always a comfort. Strangers, yeah, yeah, yeah. Shines on me on better terms than you or I may ever be. I know there's an answer to the question, but I'm not sure that I should word it. Allora, tra le letture che vi consigliamo, dei libri che propone la Libreria delle Donne di Padova, Librati, abbiamo individuato, per quanto riguarda la narrativa, come dicevamo prima, La bastarda di Istanbul di Shafak Kelif, che è un bellissimo romanzo familiare ambientato nella Turchia moderna, che descrive la storia e l'incontro di due donne, una turca e un'americana, che provengono in realtà dalla stessa famiglia. Si parla di violenza all'interno della famiglia, ma si parla anche di relazioni tra donne e dell'importanza di queste poi nella vita di tutti i giorni, e in cui tra l'altro si mette in luce anche l'eccidio degli armeni, e quindi si scoperchia un po' il vaso di Pandora della Turchia attuale, insomma. E poi per quanto riguarda la saggistica, la libreria tra i diversi titoli consiglia Assunta Signorelli, Praticare la differenza, Donne, psichiatria e potere, che è una sintesi del lavoro di questa psichiatra Assunta Signorelli. È un lavoro teorico in cui sono raccolti gli interventi più significativi della sua esperienza professionale, primo tra tutti il tema che ha approfondito del rapporto tra questione di genere e psichiatria. E siamo arrivati ai saluti finali. Ringraziamo innanzitutto Ilaria Duringon per aver partecipato alla nostra trasmissione, aver risposto alle nostre domande e averci un po' parlato della libreria. Intanto se volete saperne di più su Librati, potete consultare il sito della libreria www.libreriadelledonnedipadova.it, e se voleste invece andarci di persona vi invitiamo a farlo. Ripetiamo, la libreria si trova a Padova, via San Gregorio Barbarigo 91. Se volete invece contattarci o per sapere di più in realtà per riascoltare la puntata, potete trovare la puntata sul blog del Martedì Femminista mfla.noblogs.org. La nostra trasmissione si chiama Contro Essenze. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo 22 dicembre. With my freedom, from the right-hand sky to the ground, said you got the freedom to walk out if they drag you down. You've got the freedom, from the mighty sky to the ground, said you've got the freedom, walk out if they drag you down. Freedom from the sky to the ground, you've got